Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io ho amato molte donne che non ho scopato. E ho scopato molte donne che non ho amato. Molte, molte si può discutere. Vabbè, ho capito. Voi sapete la contabilità del vostro uccello. Se Parenzo avesse scopato molte donne, gli italiani farebbero 200 milioni. Peraltro. Bugia. Ma figurati. Questo non credo. Dite in giro che abbiamo ripreso ad informarvi. Sabato e domenica, i giorni più brutti della settimana. Niente podcast. Vi prego, ricominciate. Mi avete rovinato. Minchia, devo fare il risotto. Vado al fruttivendolo per chiedergli un cipollotto. E il fruttivendolo risponde: no, mi spiace, abbiamo solo il porro. Che io, porro una volta era liberale. E lui come? No, niente. Mi avete rovinato. Dice Sgarbi, no? Lei a quel livello lì dovrebbe vergognarsi. Buonasera. Allora ragazzi, siamo qui, giornata molto particolare. Giornata molto particolare perché innanzitutto non si trova Parenzo, ragazzi. Non si trova Parenzo, non so dove cazzo è. Ma letteralmente. Non so dove cazzo è. Cioè, non lo so, avrà una spiegazione da darmi, no? Porca puttana, uno che non si presenta al lavoro. Ci deve essere qualche festività, poi scopriremo. Intanto dobbiamo andare avanti. In collegamento da Abano Terme, nel suo cazzo di lettone, Alberto Gottardo. Nella suite mollemente adagiato, caro mio. Ma quale mollemente adagiato? Non dire cazzate. Ma c'è qualche festività ebraica? Che cazzo c'è? C'è qualche maledetta festività? Maledetta in senso sempre con grande rispetto delle autorità civili, politiche e militari, per carità. Ma vi pare normale nel 2020 che uno debba digiunare e non possa fare un cazzo per 24 ore? Secondo te? Io no, dico, poi proporremo il tema quando apparirà. Ma secondo voi è normale? Io voglio dire a voi, è normale male tutto questo? È normale? Io non lo so se è normale. Intanto molta gente è incazzata perché nel fine settimana ha appreso che il presidente dell'Impisi, come se il presidente dell'Impisi, come diceva una volta la mitica Clementi, che poi sentiremo, si è aumentato lo stipendio. Secondo me pure ha fatto molto bene. Certo, guadagna meno di te in ogni caso. Assolutamente. È passato da 60 non so quanto a 150, non mi interessa. Comunque più che raddoppiato, non lo so, era già previsto. È inutile che quelli dell'opposizione rompano il cazzo, in particolare la Lega, perché la norma è stata concordata quando loro erano al governo. Ma il punto non è questo. Il presidente dell'INPS, che certamente a mio parere non ha fatto un gran lavoro, si è raddoppiato lo stipendio. Non è un buon momento. E Gottardo cosa dice? Ha fatto benissimo. Avete sentito, scusami, Gottardo? Ha fatto benissimo. Certo, ha fatto benissimo. E comunque sono sempre o sono troppi quelli che prendi tu, o sono troppo pochi quelli che prende il presidente dell'Inps. Evita, che c'entra il paragone tra me e il presidente dell'Inps? Ma certo, ma sono due aziende. Una è un'azienda privata, l'altra è un'azienda pubblica. Però il presidente dell'Inps ha delle responsabilità pazzesche. Che prenda poco mi sembra una cosa assolutamente ridicola. Vai su Porro. Trenico, mentre c'è il gran casino della pandemia, il 22 aprile, 20 giorni dopo il click day dei 600 euro, un disastro cosmico che tutte le partite IVA conoscono, fai un consiglio d'amministrazione in cui ti aumenti lo stipendio. Allora, la cosa è perfettamente legittima, ma io vorrei mettervi nel quadro e vorrei che questo quadro non fosse raccontato da uno che vuole che i manager siano strapagati come il sottoscritto, perché penso che se meritino debbono essere pagati, ma dai grillini, dai comunistelli, quelli che facevano tutti quanti, no? L'idea di uno vale uno. Questi hanno costruito la loro retorica di merda sul fatto che uno vale uno e che Tridico vale come il fattorino, con tutto il rispetto per il fattorino che secondo me fa meglio il lavoro di quanto faccia Tridico, meglio il fattorino perché forse le lettere le porta. Allora ragazzi, però la questione che ha posto Porro è quella giusta. Cioè il problema non è che questo qua si aumenta lo stipendio perché era previsto così, perché avevano deciso così, eccetera eccetera, più che raddoppiato. Il punto non è questo. Il punto è che i grillini erano contrari a queste cose. Ma sì, ma certo, lì... era gente che diceva che il presidente dell'Inps è giusto che guadagnasse come un impiegato, certo, normale, uno vale uno, queste robe qui. Cioè, per cui adesso dicevano, e lo diedi io in ANSA da Padova, apriremo il Parlamento come la scatoletta di tonno, e adesso hanno scoperto la scatoletta del caviale. Sono normalizzati. Briatore contro De Luca, un frustrato e invidioso contro le persone vincenti. Sente Briatore che se la piglia con De Luca perché il governatore della Campania, il governatore del mondo, aveva detto no, ha preso la prostatite ai polmoni, c'ha la prostatite ai polmoni. Vabbè, però Briatore, De Luca è uno che gioca sulle parole, è anche un po' un comico, no? Cioè anche un po' un uomo di spettacolo, devi capire che il governatore del mondo è fatto così, è un uomo di spettacolo. Io per queste battute straordinarie, la prostatite ai polmoni, ridendo, scherzando, pronunciate in quella televisione Lira TV come se fosse là Kim Il-sung, no? Kim Jong-un piazzato lì senza domande a dire la sua, è un pezzo di teatro straordinario, non bisogna nemmeno prendere troppo sul serio, è un uomo di teatro straordinario il governatore del mondo, e dunque è incriticabile. Sì, t'ha preso per il culo sulla prostatite, ma che ti frega, fatti scivolare addosso questa cosa qui, non te la pigliare con Luca, che ti frega, frustrato, invidioso contro le persone vincenti. Lui è un vincente, ha vinto le elezioni, è vincente più di tante persone del PD, è uno dei pochi del PD vincenti, lui, Bonaccini, gente che vince le elezioni, che ha consenso, che ha elettorato, è così, è una cosa reale, cioè per cui è uno al tuo pari, cioè è conosciuto come te, una persona forte, vince nonostante il PD, una persona carismatica, per cui se è un uomo di spettacolo lasciagli le battute da un uomo di spettacolo, dai. Cioè, tu fai riferimento al presidente della Campania che ha detto Briatore ha la prostatite ai polmoni, non è stata uscita. Sì, credo di sì. Ma sai, Massimo, quando attacchi le persone che sono vincenti, le persone che hanno fatto delle cose, e garantisci a queste persone che sono un po' frustrate e invidiose qualche secondo di benessere. Perché sembra che questa gente qui, quando ti succede qualcosa, è il loro benessere. Se tu hai successo, Massimo, diranno la stessa cosa di te. Se Alberto Zangrillo, l'abbiamo sentito le critiche a Alberto Zangrillo, cioè medici che hanno salvato centinaia di persone, le hanno insultate, hanno insultato la sanità lombarda, hanno insultato chiunque. Per cui gente così, devi passare, lasciare, guardare, gente che vivrà male, perché quando tu auguri a qualcuno di che succeda qualcosa di brutto a qualcuno è perché umanamente sei una merda. Ma Sì, però, però non è che, attenzione, non è che De Luca, non è che De Luca abbia detto, si è augurato a che cioè ha fatto una battuta alla prostatite, ai polmoni, perché lui aveva detto. Bisognerebbe spiegare a Briatore che non è il centro del mondo, cioè il sole non gira intorno a Briatore. Adesso questo non c'entra un ancora... cazzo, ma non c'entra un cazzo, non è che il sole gira intorno a Briatore. Ha fatto una battuta, non è che si è fatto un convegno su Briatore, De Luca, sì, dai. Ha fatto una battuta, d'accordo, sono d'accordo con te, però non è che Briatore si senta al centro del mondo. Briatore se la piglia perché quello ha fatto una battuta. Se tu avessi la prostatite, e mi sembra che non ce l'hai la prostatite, no, potresti averla, perché per anni non hai trombato. E dunque, come sai, la prostata, sì, la prostata, se non la fai lavorare, benissimo, se non fai lavorare l'uccello, come disse Grillo, se non fai lavorare, se non fai la, se non evacui, se non evacui, sì, se no, se non vieni più e più volte, la prostata ne risente. Tu per anni hai avuto dei problemi, diciamo la verità. Sì, però come dice il maestro, non hai avuto, avuto un'interruzione. Ho fatto il cleaning of the pipe, no, ho pulito il tubo, a mano. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Lo so che non è la stessa cosa, me ne sto assolutamente rendendo conto. No, ma Massimo, era possibile, immaginabile, come era possibile, immaginabile che poteva succedere sulle spiagge, poteva succedere negli assembramenti che c'erano. Poi c'è stato un attacco veramente bestiale sia sulla Sardegna, in particolare la Costa Smeralda, di conseguenza in Costa Smeralda la discoteca più famosa, il Billionaire, affiancato a Flavio Briatore. C'è stato un attacco mediatico veramente vergognoso, dicendo delle fake news giornalmente. Fake news. Una partita di calcetto scatena questa invidia, questa gelosia, come se anche il calcetto fosse l'untore in Costa Smeralda, perché la gente che va in Costa Smeralda sta sulle palle a tutti quanti, questo è il vero problema, e la Costa Smeralda è il più bel posto del mondo, per cui tutta questa gente qui, se fossimo andati a Capalbio, dove c'era sabbia nera, non ci avrebbero sicuramente, potremmo giocare al calcetto e nessuno diceva niente. Ecco il terrore intanto nell'informazione, a parte Briatore che dice, insomma, che c'è stato un attacco mediatico sulla Costa Smeralda, alla Costa Smeralda, eccetera, no? E non c'è stato da altre parti. Leggo dei siti online, attuali positivi sopra quota 50.000 per la prima volta dopo 4 mesi. E allora che cosa vuol dire? Quanti sono in ospedale? Sì, quasi nessuno. Ma la follia è al di là della questione degli ospedali, che cominciano a riempirsi, però non in maniera così. Sì, qualcuno in più c'è sicuramente. Bisognerebbe vedere nel 2018, magari scopriamo che c'erano più ricoverati di adesso, dai. Sì, ma il problema fondamentale è un altro, cioè è quello che lo volete capire che ci sono milioni di persone che hanno tracce di Covid in Italia? Milioni di persone, punto e basta. Suarez meno negri, più Suarez meno negri. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Amico mio, ero gasatissimo per l'uscita del tuo libro Nudi. Sì. Cazzo, ci hai dovuto mettere quel culone flaccido da sessantenne. No, non lo compro più, perché non è che mi alletta tanto l'idea di averti, di avere il tuo culo bello posizionato nella mia libreria. Siamo al top però, Va bene tutto, ma il culo flaccido di Cruciani in copertina non ce lo meritiamo proprio. Lascialo dire a me, però, scusami. Lascialo dire a me. Ero presente allo scatto fotografico. Vero. Confermo. E quindi, ragazzi. No, ma ragazzi, il culo flaccido oggettivamente non c'è. Poi uno può criticare il culo, quello che volete, eccetera. Ma no, perché il tuo culo non si può criticare. Qui farò non si può criticare. Pubblicità, lo dico per la prima volta, farò una pubblicità sfrenata al mio libro in uscita l'8 ottobre, anche al mio culo, ma non c'è bisogno. Ma una no, non è chiacchierato, però una pubblicità. Sì, ma non è chiacchierato, cazzo, no, cioè ma secondo me Guarda, io se dovessi scommettere 1 milione di euro scommetterei sulla tua non verginità. No, no, no, sbaglieresti, sappilo. Perderesti 1 milione di euro. Perderesti 1 milione sì, di euro. Adesso, ma non c'è, niente un proctologo di... la... ma c'è un proctologo all'ascolto che può certificare la verginità anale? Guarda, di ho fatto, posso dirti, ho fatto di recente una visita, sì? A, una visita alla prostata. Sì, e ti è piaciuto? No, non mi è piaciuto. In cui il dottore, non posso dire chi è, sì? Magari lo possiamo anche chiamare, però non credo che gli faccia piacere, vuole anche la sua privacy. Non tutti sono esibizionisti come noi. Anche perché io non farei sapere in giro che ho infilato il mio dito medio. Vabbè, nel che culo c'è, quello è il dottore, che c'è, quello potrebbe fa per mestiere, incoglionito. La cosa, ma lo fa per mestiere quello. Ma lo fa per mestiere, certo che ha il guanto, l'incoglionito. No, lo scafandro no. Da quant'è che non te lo lavavi? Da quant'è che non ti lavavi quel culo? Sai che non lo so, perché effettivamente non pensavo di subire questo tipo di visita, non sono andato apposta per quello, ma per un'altra cosa. Non eri preparato, non ero preparato. Che non so che, no, non so cosa ha visto, non so cosa ha provato. Effettivamente, mamma, ha preso schifo, il guanto avrà blu. Ha provato schifo. Non lo so, no, quello sicuramente. Ha preso un guanto blu, mi ha infilato il dito e mi ha detto: "Hai, adesso mi tocco anche a pelle, hai una prostata piccolissima", che è molto positivo. Una prostata piccolissima, come un mirtillo. Una piccolissima prostata. Poi mi ha prescritto degli esami per sicurezza, però la prostata è piccolissima. Dunque, in realtà, un dito nel culo, anche in attività sessuale, ogni tanto. Lo prendo. Quella, diciamo, volumi più grossi al momento no. Volumi bene, più grossi allora, al momento io faccio no. Una domanda, faccio una domanda ai nostri ascoltatori, se posso. Non è che Cruciani sia andato a farsi visitare la prostata perché non gli funziona più il cazzo? No, no così no, intanto no, no, l'abbiamo no. Detto. Questo... io vorrei seminare questo sospetto. Questo sei il solito, è il solito coglione. All'800 chiamate, no, perché no, secondo no, me no. Perché uno va a farsi visitare le la prostata? Visite normali, perché visite... non gli funziona no, più il cazzo. No, non è vero, visite è normali. Evidente questa no, cosa no, no, qui. Visite normali, fermo tutto, notizie da Parenzo arrivano, fermo, fermi tutti. Ma che cazzo è? Ma questa è la figlia? Ma questa è la figlia che strilla? Che ha il singhiozzo? Ma questa è Noah. Noah. Che cazzo fanno? Devono darle decotto di finocchio se ha il singhiozzo così. Comunque posso dirti che questo qua è abuso di minori. Falla piangere. Ma che come falla piangere? Della radio, falla piangere. Per la radio. Falla piangere. Piange, amore. Per la radio, dai. La pianti! Fammi risentire questo. Cioè questo qua è roba da telefono azzurro. Cioè chiamiamo il presidente del telefono azzurro. Scusi, uno se fa sentire i pianti a posto, se invoglia, se costringe una bambina a piangere per mandarlo poi alla radio. Che cos'è questa roba? Questa è da denuncia, cazzo. Abbiamo poi chiamiamo il telefono azzurro. Fammi risentire quest'ultimo. Nemmeno vi considera. Falla piangere. Ma che falla piangere? Solo per la radio, falla piangere. Nemmeno ti considera. Piangi, amore. Della radio, dai! La pianti! Dai che funziona, dai! Roba incredibile, ragazzi. Cioè, veramente da chiamare il telefono azzurro, c'è un centralino del telefono azzurro, poi me lo date. Allora, quando un uomo insulta una donna, ovviamente insulta o comunque usa delle parole magari che riguardano il suo aspetto fisico o quello che fa o quello che mangia, dice eccetera, gallina, per esempio. O dice gallina, eccetera, viene giù il mondo, scuse, eccetera. Sentite la murgia su Salvini. Oh, fosse per me può dire quello che vuole, Io non dico per me ognuno può dire quello che vuole, ci sono pochissime cose. Se a me mi dicono pedofilo ti porto in tribunale. Una volta non l'ho fatto, chiaro. Con quel coglione di animalista vassallo, semplicemente perché uno, cioè, che cosa gli avrei potuto togliere? Nulla, perché non aveva niente, dunque non gli potevo togliere nulla e chi se ne frega, però l'ho salvato, diciamo che l'ho graziato. Ora io dico la murgia che parla così di Salvini: il muso unto di porchetta. Ora ditemi voi, se Salvini avesse detto della murgia quella là con quel, no, con quel rivolo di cosa, con quel rivolo con le mani porcine, con le per mani esempio, porcine, no? Sì, con le mani porcine sarebbe successo un casino, sessismo, la murgia, certo. No, colpita nel suo essere la Boldrini, avrebbe fatto un'interrogazione, dai, su murgia. Funzionano bene se sei percepito come una persona seria. Se in una mano hai un supplì e il muso unto di porchetta a una sagra e nell'altra mano hai un pugno di commercialisti in odor di ladrocinio, come sta venendo fuori adesso, è difficile che quei toni forti non suonino grotteschi e anche tragici a tratti. Il dipinto della murgia su Salvini. A me non me ne frega un cazzo, poi di difendere Salvini che si difende bene da solo. Vogliamo far riascoltare però una frase che ha detto Valentina Nappi la settimana scorsa qui alla Zanzara, che addirittura è stata ripresa anche negli Stati Uniti d'America, United States. Nei paesi dove c'è la prostituzione libera ci sono meno stupri, le donne se la danno via facilmente diminuiscono gli stupri. Per me è una follia. Comunque, vai. Meno stupri, cioè se uno, se le donne la dessero più facilmente ci sarebbero meno stupri, questo mi sembra. Probabilmente sì. Probabilmente la tesi di Valentina Nappi, se le donne la danno più facilmente ci sarebbero meno stupri. No, in realtà non è una mia tesi. Per esempio, nei paesi dove c'è più prostituzione legale, eccetera, statisticamente ci sono anche meno stupri. Bah. Non sapevo che Valentina Nappi fosse laureata in antropologia, eh. Mi era. Gianmaria da Parma, vai avanti tutta. Gianmaria, ecco, Paolo, faccio, ci sei? Sì, dimmi Gianmaria. Ecco, faccio seguito anche a Valentina Nappi. Probabilmente se la gente scopasse un po' di più, soprattutto i tuoi amici cacciatori, ci sarebbero meno teste di cazzo in giro, visto che tu li vai tanto a lodare queste merde. Io amo la caccia. Tu ami la caccia, certo. Dimmi anche che sei uno di quelli che sostiene che amano la natura, magari anche, giusto? L'ho detto più volte, ma lo ripeto. Tu ami tua figlia, che cazzo fai? La uccidi? Ad uso degli imbecilli come te. Che tu ami tua figlia, che cazzo fai? La uccidi? Ripeto, ad uso degli imbecilli come te. I cacciatori amano la natura. Insultato io. Più la dei cosiddetti animalisti, cosa vai a rompere i coglioni agli animali? No, così la caccia è regolamentata e nei posti dove si può fare. Ma non mi hai risposto comunque. Ma qual è il punto? Non ho capito. Come puoi paragonare lo stupro o l'uccisione di un essere umano all'uccisione di un animale, cretino? Ma non sembra, se tu ami qualcuno spera che questo cresca felice, libero. Non vai nei boschi a uccidere un animale e dici amo la natura, ma ti rendi conto della follia? Ma che dici? Ma non è un ragionamento folle, è un ragionamento basato sulla realtà. La natura è fatta di tante cose, anche una pianta, anche l'albero. Non è un lavoro, innanzitutto. Sei malato mentale, no, anche tu. Non sono malati mentali, sono persone come te che amano fare una cosa che a te non piace. Amano una cosa che a me non piace. Sì, punto, non sono psicopatici. Amare l'uccisione, quindi è una cosa normale. L'uccisione, certamente, è l'uccisione di qualcosa. E tu la mangi la carne. Se ammazzo io un uomo e lo amo, posso essere una persona normale. La mangi la carne, Gianmaria? No, non la mangio la carne, mangio il pesce ogni tanto. Ma non c'è anche sono, il pesce viene non, pescato e ucciso. Ma fermati tutti, qualcosa che viene dall'uccisione di una persona, come tu la chiami, di un essere umano. Per necessità, un conto è la caccia sportiva. Ancora stiamo a questi livelli, dai, non dire cazzate. Ma non dire puttanate. Non li sai difendere tanto, alla fine, alla lunga. Se c'è uno che ti sa un attimino parlare, non sai cosa dire. Come quelli che arrivano ogni tanto. Ma che cazzo dici? Io sto dicendo. Risposta alla mia domanda. Ma qual è la domanda? Qual è la domanda? La domanda è quella: se tu ami tua figlia, che cazzo fai? Vuoi il suo male o vuoi il suo bene? Ripeto ancora una volta: tu stai facendo un paragone improprio tra un essere umano, cioè una figlia, una persona, una bambina. Se tu ami un cane, se tu ami il tuo cane. Il cane non è paragonato. Ma cosa c'entra poi amare? Io amare la natura in senso lato. Amano la natura. Amano la natura. Come l'amano? Andando nei boschi facendo casino, spaventando tutto quello che c'è. Spaccando tutto. Adesso vuoi ribaltare i concetti fondamentali della caccia, che è vedere la natura, passare. Ti faccio riflettere su una cosa che non ha senso. Ho già riflettuto, ho già le mie convinzioni. Tommaso da Bologna. Dimmi, Tommaso. Volevo soltanto dire una cosa, velocissimo, intervento velocissimo. Lascia stare. Allora, se ti fai le seghe, sì, la prostata si sgonfia tanto quanto trombando, quindi la cosa che hai detto prima è una cagata. La prostata, se non si usa, l'uccello, chiaramente può avere dei problemi. Mi ricordo una famosa frase di Beppe Grillo: trombare è meglio di farsi la pippa. È sempre meglio che masturbarsi. No, ma non in generale come preferenza, ma non gli effetti sulla prostata sono migliori quelli con la. Esistono tecniche di masturbazione che garantiscono lo stesso utilizzo della prostata. E quali sarebbero? Tu sei un esperto? Sì, abbastanza. Non io in particolare, ma ho appena parlato con un professore che... Allora, fammi chiamare da questo professore. Fermo là. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Guagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Tesoro mio, non è l'unico che chiede delle foto, sai? Io mi permetto di pagare un sito, è anche costoso, per mettere le mie foto e mettere tutto quello che faccio, e non mando foto a nessuno. Se non ti bastano vedere le foto che ho lì sul sito, allora mi dispiace tesoro, va bene? Ti auguro una bella giornata. Io ho avuto, tutti ridono di questa prostatite, ma non l'auguro a nessuno perché è tremenda. Io l'anno scorso ho avuto un'infezione, mi sono fatto curare alla Madonnina sempre dal professor Zangrillo, sono stato malissimo per 10 giorni. Il 20 mi sono sentito male, pensavo fosse lo stesso problema dell'anno scorso, sono arrivato in ospedale domenica sera, mi hanno fatto il tampone. Considera che la prostatite, se tu fai l'antibiotico per vena, allora raggiunge prima che prendere le pastiglie, per cui pensavo che fosse la stessa cosa, onestamente. Al martedì mattina mi hanno detto che avevo coronavirus. Non ci pensavo minimamente, pensavo di avere questa famosa, ormai è diventata famosa la prostatite, sì. Ma non l'auguro a nessuno, neanche al presidente della campagna che ci rideva sopra, non gliela auguro neanche a lui. E intanto dopo lo scoppio del caso INPS, ecco venire di nuovo fuori la Clementi, la mitica Emilia Clementi. Comunque ragazzi, è vero, la prostatite sono cazzi amacidi, è inutile scherzarci sopra. Poi si può scherzare su tutto, De Luca ha fatto una battuta, la prostatite ai polmoni, perché voleva collegare questo al coronavirus, quello è un comico, lo ripeto ancora una volta, però la prostatite... Con l'età che ha De Luca non scherzerei sulla prostata. Esatto, eh? La prostata ragazzi non è uno scherzo. Io per adesso ce l'ho molto piccola, devo dire la verità, piccola, così mi dice il medico. E non solo magari, la prostata, dicono. Poi magari, no, molto piccola no, quello non lo dice nessuno. Molto piccola. Vabbè. La prostata, Clementi. Effettivamente, quando hai fatto la foto del culo, ho visto anche la parte A e mi sono stupito. E mi sono stupito, cari miei. Come non potevo non fare un video per dire quanto è pietoso, quando è cosa inutile, bisogna avere il coraggio di parlare, il coraggio di dirgli che Pasquale Tridico è un cosa inutile. Quando c'è gente che non può arrivare a fine mese, io non ho pagato INPS, perché 3 mesi ferma a rate, poi ne parleremo dopo gennaio, perché prima non si può, perché sennò significa chiudere la saracinesca, perché già si pagano pure le altre tasse. Noi ci meritiamo questa casta politica, questi funzionari, questi dirigenti, ce lo meritiamo, perché siamo un popolo di babbi che avete paura di andare davanti a Montecitorio a dare la vostra presenza con il vostro dissenso. Ma dove devi andare davanti a Montecitorio? Ma a fare che? Per me uno che con lavora Pappalardo. Uno che lavora con no, ma uno che lavora come il presidente dell'INPS dovrebbe guadagnare 2 milioni di euro, non è questo il punto. Il fatto che devono essere coerenti, non li possono far guadagnare poco e poi a un certo punto no, decidere che c'è un aumento, dai. Con te Dracula fa la sua apparenza in TV, tutto andrà bene, abbasseremo le tasse, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto... Che cazzo avete fatto? Ma che cazzo dite tutte queste bugie? Ladri! Poi mi fate pure la legge che comunque io dico ladro, ho strappato l'INPS. Ma chi la deve pagare l'INPS? Allora ragazzi, Dimitri da Pisa. Fermi, annuncio parenziano, finalmente, ma sono andato a spulciare sull'internet, mi sono ricordato anche che mi aveva mandato una mail 20 giorni fa, un messaggio del cazzo il 28 ottobre, mamma mia che cose medievali, ma uno come De Luca, delle cose medievali sono queste, medievali, il digiuno, uno non può lavorare, ma che roba è? Ma siamo nel 2020, ma che roba è? Buonasera a tutti, inutile che continuate a cercarmi perché oggi è il digiuno dello Yom Kippur. Che cos'è il digiuno del Kippur? È un digiuno di 25 ore, ci si astiene dal lavoro, non si beve e non si mangia per 25 ore. Il digiuno è iniziato ieri, domenica sera, e finisce ovviamente lunedì sera, quindi stasera non potrò essere con voi. Ma il digiuno del Kippur è qualcosa di più, perché è il giorno in cui si è davanti al cospetto del Signore e si chiede scusa a tutti coloro ai quali si è fatto del male. Quindi io colgo questa occasione, la radio del Sole 24 Ore, Radio 24, che è una radio autorevolissima e non si sa per quale motivo ospita una trasmissione come la Zanzara. Bene, uso questa giornata per chiedere scusa a tutti gli ascoltatori, scusa a tutte le persone alle quali ho recato offesa e che magari ho insultato. Certo, chiedere scusa mi costa fatica, ma è questa l'essenza del Kippur. Gli ascoltatori della Zanzara ovviamente sono salvi, chi chiama invece vada come al solito a fare in culo. Come? Espiare. La cosa che mi fa impazzire poi è l'espiazione, capito? L'espiazione, cioè questi fanno il digiuno per espiare. Espiare. Vabbè, ma anche i cattolici fanno la stessa cosa. Dai, su, ma che roba è? Dimitri da Pisa, dai, su, Dimitri. Sì, buonasera. Però se non ci fossero le religioni non ci sarebbero nemmeno quelli contro le religioni, non ci sarebbero nemmeno gli atei, no? Non ci sarebbero nemmeno gli antiabortisti se non ci fosse l'aborto, tutto questo. Dimitri da Pisa, dai. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo intervenire a proposito. Cioè, se c'è il bene perché c'è il male, questo voglio dire, sembra banale la cosa, ma non possiamo volere un mondo dove sia tutto in festa, dove sia tutto azzurro. Cioè, ci deve essere una parte di nero, ci deve essere la merda. Ricordiamo. La merda ci deve essere, per forza. E ricordiamo che questo mondo di merda è stato creato 5.340 anni fa. Dimitri da Pisa, secondo loro. Dimitri da Pisa, vai. Sì. Allora, dimmi. Sì, allora, dicevo, volevo intervenire a proposito del discorso del signore di Parma sulla caccia. Dimmi. E mi sembra che ci sia un pochino di ipocrisia, io rispetto tutti, non sono come gli animalisti, però mi sembra che ci sia un po' di ipocrisia su questo discorso, perché questi signori si dovrebbero domandare quando, non quando è necessario, cioè si va al lavoro, ma quando il sabato andiamo a fare shopping o la domenica andiamo al mare, portiamo la moglie al mare, quanti animali uccidono con la macchina, con lo scooter e roba varia. Secondo me una mosca, una zanzara o un moscino ha gli stessi diritti di un fagiano. Quindi ma sì, ma arriva... secondo gli animalisti più coerenti dovrebbe essere così, ma amico mio, infatti, devo dire? È un vecchio discorso. Claudio, non è vero niente. Uber da Reggio Emilia, Uber, non so come cazzo si fa uno a chiamare Uber, comunque. È un'app. Uber, come cazzo si fa uno a chiamare Uber? Che sei? Uber Alles. Deutschland, Uber Alles. Uber. Uber, sopra, sei tedesco. Sei tedesco, italiano, sei tedesco. Assolutamente, piccolo scuro e tracagnotto. Tedesco. Sì, però parli emiliano tranquillamente, senza problemi. Cioè, Uber, vabbè, comunque andiamo avanti, dai, Uber. Volevo lanciarmi al discorso di Briatore. Io mi cambierei nome, uno ormai anche con l'esistenza di Uber, che è un'altra roba. Io mi cambierei nome immediatamente. Ma se andrei a cambiare, sì, ma andrei a mondo, taxi, aerei. È vero. Appunto per questo uno dice: pronto, ciao Uber, ma che cazzo è? Mi cambia nome. Sono Uber, arrivo con un mezzo, con qualsiasi mezzo. Vai, dimmi Uber. Roba. Allora mi alzavo un discorso di Briatore che parlava della prostatite, dicendo la comunissima prostatite. Sicuramente l'aveva fraintesa con la IPB, ipertrofia prostatica benigna. E tu che fai? L'urologo? Non ho capito. Sono un appassionato di prostata. Un appassionato della prostata. E il PD è una patologia comunista, non è una patologia. Sì, è un caso comunissimo. Ma noi adesso che ce ne frega però. No, però potrebbe essere interessante. No, Giuseppe. C'era il discorso che dicevo praticamente che per ammorbidire la prostata è importante eiaculare. Allora, ho capito. Però Uber. Uber, confessa, tu ti sei mai fatto infilare uno strap-on da qualche parte per ammorbidire la tua di prostata? Ma perché no. Si dovrebbe fare infilare la nostra porno? Per no, perché sei appassionato di prostata, uno che dice che è appassionato di prostata. È sufficiente una sana masturbazione, anche non assistita. Ah, tu stai, tu stai dicendo che per far funzionare bene la prostata non è necessario scopare. Per ammorbidirla, l'eiaculazione ammorbidisce la prostata. Di qualsiasi, di qualsiasi tipo sia, anche quella che viene dall'attività masturbatoria. La prostata deve essere assistita, può essere anche autogestita. Vabbè ragazzi, comunque tra la scelta se masturbarsi di continuo o trombare, uno ovviamente è meglio trombare. Beh, però anche la masturbazione ha il suo valore, per carità. Funziona, però l'importante è l'eiaculazione. Il motto è eiaculare. Vabbè. Eiaculando la prostata rimane sana. Ciao, grande PSA. Ciao. Giacomo da Novara, dai Giacomo, vai. Sì, pronto, ciao. Dimmi Giacomo. Ascolta, io vorrei capire un attimino, come tanti altri ascoltatori, questa tua sorpresa nell'apprendere a 50 anni rotti che tanta gente preferisce non scopare. No, ma cioè, io sono sorpreso per il fatto che tanta gente non lo so. Gente. Che c'è una, preferisce non scopare. Un numero consistente, tu fai parte di queste di questo gruppo, no, di persone? Assolutamente no. No, cioè, io ho avuto il mio periodo, il mio annetto che senza ragazza non si trombava e mi sono fatto le mie molte pippe. Però c'è normale. No, io dire, mi stupisco non delle persone che per un anno, qualche mese, eccetera. Io no, francamente 10-12 anni. No, 10-12 anni, francamente, 10-12 anni non è perfettamente non normale. È possibile. No, non è possibile. Già, 10-12 anni non è una cosa normale. Fa parte delle patologie. Per noi non è normale, però è la norma, nel senso che statisticamente succede. Perché ci sono uomini e donne che magari dicono: non mi va di andare a puttane, voglio l'amore, lascia perdere la moralità, queste cose. No, ho capito, cazzate, però no? Ripeto, continuo a pensare, Giacomo, che l'uomo o la donna che per 10 anni, se non addirittura per 3 anni, non toccano un corpo di un'altra persona, e continuo a pensare che questa cosa qui è una cosa patologica, è una cosa che ha a che fare con la patologia. È più normale, c'è poco da fare. È più normale che qualcuno faccia sborrare un altro tizio sulle tette di sua moglie e poi lo lecchi, questo è più normale. Allora, posso dirti, ogni tanto Gottardo come posso un dirti, dice due, no, due, posso due dirti, cose Giacomo, posso dirti sì. Posso dirti sì. La risposta alla domanda tua di prima, molto cruda, l'ho posta anche in una trasmissione, in un podcast Muschio Selvaggio di Fedez qualche settimana fa. No, ma non c'è nessuna marchetta. Ho citato un programma. Ma non c'è. Come scusa? Ma sì, che se ne frega di Fedez, vai al punto. No, ma chi se ne frega di Fedez? Era una citazione da un programma. Dopo te la metto, così ti lo do ancora più. Ma vai al punto, perché sarebbe più normale spermare sulle tette del. È assolutamente. Allora, per me non è una cosa così bizzarra. Fa parte di una tra le tante perversioni sessuali. Ed è sicuramente più normale, se vogliamo considerare la normalità. Del fatto che uno non scopa per dell'astinenza sessuale, allora, non c'è dubbio. Ti spiego una cosa, perché secondo me tu, siccome sei una persona che gli piace il flash, gli piace il carnale, no? Magari tu un approccio crudo come la pratica che si diceva prima, per te lo ritieni meno bizzarro. No, ma a te fa orrore che qualcuno non tocchi un corpo. No, ma non è che mi fa orrore, lo trovo una follia, no. Che uno per anni, sì. Addirittura per un anno, per due anni, non tocchi nessuno, mi sembra una cosa senza senso. È una cosa, io vabbè, ho un amico che si è lasciato nel 2006 con la ragazza e ha trombato dopo 11 anni. Ma ragazzi, ma dopo 11 anni, si deve andare, in questi 11 anni, se non è andato da qualcuno a farsi per un consulto, a farsi visitare, è un problema, per 11 anni è una follia. Fermala. È un blocco psicologico, dai. Fermi là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Mi fanno schifo i gay, mi fanno schifo gli etero, mi fanno schifo i trans, mi fanno schifo i bianchi, mi fanno schifo i neri, mi fanno schifo i rossi, i gialli, mi fanno schifo quelli di destra, quelli di sinistra, mi fa schifo il centro. Mi fa schifo l'indifferenza con la politica, mi fanno schifo le persone, mi fanno schifo le donne, mi fanno schifo gli uomini. Adesso mandami in galera, che mi fa schifo anche te. I froci mi fanno schifo e soggetti come quel Ciacci o quel Vladimiro Guadagno qualsiasi legge possano mettere, continuerò a chiamarli con i termini tecnici del linguaggio comune, cioè froci, ricchioni, culattoni, busoni, eccetera. Anche gli africani mi fanno schifo e continuerò a chiamarli sempre negri. Però nemmeno vi considera. Falla piangere. Ma che fa, ma piangere? Sale della radio, falla piangere. Nemmeno ti considera. Piange, amore. Per la radio, dai. Ma pianti! Secondo me, io non vorrei scomodare i signori del telefono azzurro. Però, qualche possibilità ci può essere che rientri. Se qualcuno del tribunale dei minorenni è in ascolto, potrebbe anche fare una cosa di iniziativa. Così, insomma, intanto l'abbiamo detto, eh. Allora, Claudio da Gorizia, vai, Claudio, dimmi. Sì, non sono uno del branco. Oddio, che succede qua? Che succede? Onore Richard Benson, e voi? Figli dei figli, ma di quali fiori? Bene, allora, perché cazzo vogliono lamentarsi se mangio carne di cervo o di vacca? Diglielo agli animalisti, diglielo a Gottardo che è diventato contro la caccia. Certo che sono contro la caccia. Carne umana, non credo che... Senta, lei ha mangiato mucca... Scusi, lei ha mangiato mucca in Gran Bretagna negli anni Ottanta? Ma che c'entra, scusa, Il morbo della mucca pazza, questo è completamente fuori di testa. Non ho capito, Claudio, che cosa vuoi tu? Spiegami. Cioè, tu mangeresti anche carne umana, ma io la carne umana francamente non la mangerei. Cioè... Perché no? Perché scusa, c'è un corpo giovane che non è carne vecchia, ha preso un colpo in testa, un incidente. E lei ha preso un colpo in testa. No, ma perché? Spiegami un attimo, Claudio, dovrei mangiare carne umana? Cioè, a meno che non sono in una situazione estrema, ma non siamo in una situazione da... Ci sono degli studi che anche le piante sono esseri senzienti. Quello là che detto, ma i vegani a me mi fanno cagare. Le piante sono esseri senzienti. Tu comunque, la nostra vita è un virus per Gaia, il pianeta vivente. Noi siamo un'infezione estesa. Dobbiamo uccidere altri esseri viventi per vivere. Questa è la nostra natura. Come gli altri esseri viventi uccidono altri. Allora dovrebbe andare a dire al cervo: no, tu non brucare l'erba. Dovrebbe andare a dire al lupo: tu non mangiare il cervo. Ma ascolta, ma questo è uno splendido, amico mio. Questo è uno splendido manifesto. Un meraviglioso manifesto e ti ringrazio. Sì. Ciao, tranne il cannibalismo. Ciao. Sentire questo animalista. Divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Grazie, Richard. Intanto senti l'animalista, sentiamo sta animalista qua. Manco so chi è, un animalista del cazzo che. Senti. Dunque, scusate, Allora direte, è la solita animalista che rompe coglioni perché c'è la caccia. Vi voglio dire una cosa, stavolta degli animali non me ne frega veramente un cazzo, ok? Ma no, che sentite il lavoro, a voi vi pare normale che un cristiano che lavora, che si gira il cazzo e paga le tasse, venga svegliato da questi psicotici lobotomizzati o il fucile in spalla? Voi a me mi dovete spiegare se vi sembra normale. Nel 2020, t'affacci a vedere che cazzo succede a casa tua, nel tuo campo, e vedi un briaco lobotomizzato con un fucile in spalla che quando gli dici ma vai più giù a rompere il cazzo, ti guarda e ti fa: ora vengo, ostie, ma passa il fucile e vieni qui, segone di merda. Perfetto. Avete rotto il cazzo, voi e la caccia. Io, cioè, non sono qui come animalista, sono qui come persona, come cittadina pagante le tasse. Io ho 8 cacciatori qui, cohani, cofischi, che io gliele metterei tutti nel culo. Ve le metterei tutti nel culo. Siete fuori di testa. Cambia casa. Non ti piace, metti delle protezioni, cambia casa, che ti devo dire? Dovrebbe mettere delle mine antiuomo. Ma cambia casa, dai, su, sei capitato in mezzo agli animalisti, ai cacciatori. pazienza, ti prendi i cacciatori in un periodo molto breve dell'anno e altrimenti cambia casa. Ma scusami, come mettono le tagliole per le lepri? Potrebbero mettere delle tagliole per i cacciatori. Non sto qui a dirvi non li sparate piccinini agli animali. Stamani gli animali me ne sbatto il cazzo anch'io. C'ho il cuore a 2000 da nervi. Dio vi fulminassi. È chiaro? Non è possibile, non è possibile che nel 2020 io venga svegliata a 1,5 chilometri dal centro da una banda di scappati di casa che gira nel mio campo e sembra vada a cercare i terroristi delle Brigate Rosse. Siete fuori di testa, voi e chi vi dà il permesso. Come cazzo mi viene? Ma perché non andate a portare la moglie all'IKEA? Speriamo che un uccello lo trovi lei. Malati di mente. Beh ragazzi, questo è il top. Vorrei invitarla in questa emissione radiofonica. Ma non è che andate all'IKEA invece di andare a caccia. È esasperata, cambiassero la legge, la facessero, tenessero lontani, facessero la caccia lontana dai centri abitati, come nella, certo, nella maggior parte dei casi, però ecco, ma nella maggior parte dei casi è così. Se fosse così, nella maggioranza dei casi non ci sarebbero centinaia di persone che chiamano questa trasmissione. Cambiasse casa per questa qua, Oscar. Come cambiasse casa? Cambiasse casa, che cazzo me ne frega a me? Cambiasse casa, dai. Io pure ho i rumori del bar sotto casa. Anch'io ho i rumori di un bar sotto casa. Beh, che cazzo devo fare? Ho i rumori del bar 24 ore su 24. Ma non è uguale. È uguale. Ma che cazzo faccio? Dico al bar di spostarsi? Non lo posso fare, purtroppo. Non c'è nessun lussuoso appartamento, purtroppo. Un appartamento piccolo dove i bar sotto rompono i coglioni ogni tanto. Che cosa faccio? Scendo giù con i randelli. Sì, sì, questo è vero, tutto vero. Oscar da Bari, vai, Oscar, dimmi. Buonasera. Buonasera. Come Oscar. Sì, volevo parlare con Parenzo. Parenzo stasera ha il capodanno ebraico. Il capodanno ebraico è in digiuno, sta digiunando, amico. Ho mio. Capito, Cruciani. Allora, niente da fare, volevo sfottere lui. Volevi sfottere, che cosa volevi dire? Perché gli dovevo dire. Dimmi, anticipiamo la tua telefonata. Un attimo. L'altra volta lo feci tabaccaio, stasera lo dovevo fare navigator. Visto che è amico al Bibetaro e a Homer dei Simpson, quell'altro cretino che ride sempre, stasera, ed è buonista, gli dovevo mandare 100 neri, 100 personaggi che sbarcano in Italia a casa di Parenzo. Ma come fai a mandarli? Come fai a mandarli questi 100 neri a casa di Parenzo? In che modo? Li accompagno io, non ci sono problemi. Li accompagno io, così vi faccio fare buonista, non a spese di tutti gli italiani, a spese dei buonisti, e poi vediamo se si trombano pure le mogli e le figlie. Ma come un matto. Ma che idea è quella di mandare 100 neri a casa di Parenzo? Ma che roba è? È roba che invece di sostenerli io a 35-45 euro al giorno, qua li devono sostenere. Comunque, i amico mio, devi avere il coraggio di dirglielo in faccia domani, questa cosa qua. Domani allora, ti chiamo, glielo dici in faccia. Voglio portare 100 neri a casa di Parenzo, ok? Voglio portare un autobus pieno di neri. Ascoltami, poiché come fai a reclutarli domani, questi neri? Come fai a prenderli? Luciani, aspetta, poiché Parenzo domani, visto che è San Michele, ed è quello che sta sotto i piedi di San Michele, senza che io telefoni, il numero ce l'avete, contattatemi e glielo dirò nei denti. Ma tu sei disposto a portarli sul serio? Certamente, ne porto 100. Enrico da Perugia, Enrico da Perugia. Vai, e Enrico, che c'ha un deposito di neri questo a casa? Questo già farà il traffico, i neri che lavorano nei campi. Enrico, dimmi. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Niente, guarda, io volevo intervenire a proposito di Gottardo, che fra l'altro mi sta anche abbastanza simpatico, però sinceramente quando ha detto che avevano fatto bene a impiccare Mussolini, secondo me a fucilarlo. Vabbè, sei un coglione, benissimo. Perché quello è stato definito un episodio di macelleria messicana da gli ha tirato la fucilata. Coglione, lo stesso Sandro Pertini, perché lo stesso Sandro Pertini disse che l'insurrezione era distolorata. Guardi, persino Sant'Agostino condannava il suicidio, ma contemplava il tirannicidio. Tirannicidio è una cosa normale. Il ventennio fascista. Ma Enrico, ma qual è il problema? E lui pensa che sia stato giusto fucilare Mussolini. Un tiranno gli spari, certo. bisogna sfatare il mito del consenso fascista, perché per vabbè, ricordo, anni ma questa non è mai storia, me l'ho toccato già. Ciao. Come cioè, anche Ceausescu. Ceausescu nessuno si è lamentato quando l'hanno fucilato, infatti, non rompete i coglioni, dai. Ma che cazzo dici? Allora, per vent'anni innanzitutto il fascismo ha governato con il consenso popolare. Senti, questo qua mi pare di capire che tu sei un nostalgico. Certo. Delle classi più umili. Certo, dunque, mi pare di capire, che sei un nostalgico, giusto? Sì, assolutamente sì. Dunque sei fascista. Vogliamo sei ricordare fascista. Le cose che fece il fascismo? Ancora no, fascismo. Io ricordo che lo fucilarono e fecero bene. Ma quale disoccupazione? Ma non lo allora bene. Allora studiate, ragazzi. L'assicurazione cioè, per secondo te Induce è stato secondo te Induce è stato lavorativa ridotta a 40 ore. Ma non dire puttana. Ma come non dire puttanate? Studia cazzo. Ma non dire stronzate, Enrico, dai. Ma secondo te è stato un grande secondo te è stato un grande statista Induce? Assolutamente, sta scherzando, ma stiamo veramente andava fucilato prima. Andava fucilato prima. Ha fondato la FAO, ragazzi, ha fondato la FAO. Io fossi la FAO. Ma studiate però, dai. La FAO io abolirei, figurati. Ma se ho capito, Enrico, il punto fondamentale è questo: tu sei nostalgico del Duce, di sua eccellenza. Sono assolutamente nostalgico del Duce. Ma ci mettiamo la schiavitù in Etiopia, questo è matto. Abbiamo anche vinto due mondiali di calcio. Abbiamo anche vinto due mondiali di calcio. Ha fatto delle cazzate come tutte le dittature, perché tu sei andava fucilato prima. Andava fucilato prima, caro mio. Andava fucilato prima. Dovrei denunciare, però, sinceramente, i parenti Mussolini per quello che dici, perché tu comunque uno che dice guarda, al piazzale Loreto è stata fatta una cosa no, giusta. No, la fucilazione, tu non capisci un cazzo. Io non sto parlando di piazzale Loreto, sto parlando della fucilazione. Ciao. Allora ragazzi, grande ritorno, quasi una settimana dopo il nostro gay preferito, io dico anche Frocio, però mi è proibito davanti a lui, Giovanni Ciacci, buonasera, applausi. Buonasera, che vuoi rompicoglioni? Che c'è da rompere stasera? Che vuoi? No, ti voglio dire una cosa, dopo il tuo... Aspetta, prima di dire una cosa, ma t'ho visto col culo di fuori come una diletta leotta qualunque. Ma che sta succedendo? Sta ribaltando il mondo. Ma niente, stavolta Valeria Marini faceva vedere il culo. Io non voglio vedere il tuo culo secco. Ma perché? Ti piacciono pure i culi grossi? Non ho capito, ti piacciono. Amore, il culo deve essere come Stelliniano, tondo, grande come la luna, deve far sognare, deve far poesia. No, quella prugnetta rintessita del culo. Anche se mi dicono tante mie amiche che stai mostrando il lato sbagliato di te sul libro nudo, no? Scusami Giovanni, però non ho capito una cosa, scusami. Allora, la cosa fondamentale è questa. Il culo che c'è sulla copertina del mio libro che uscirà l'8 ottobre per la nave di Teseo, che si chiama Nudi, tanto per essere chiari. Quella mi interessa a me, infatti. Ma che vi interessa? Allora, Ciacci, ma perché? Non ho capito, tu sei più passivo che attivo? Ma tu non ti stai a preoccupare quello che voglio No, evidentemente se vuoi vedere la parte davanti sei più passivo che attivo, amico mio. Ma che me frega di vedere il culo la grossa parte davanti. Ma enorme, mi dicono, parte davanti. No, è enorme, non dire, però sembra un porcino. Cominciamo a parlare di quello che non si vede. Quello che si vede è il mio culo. E non è come una Valeria Marini qualsiasi. È far vedere il culo che è una roba che sei diventato come una leotta qualunque. Ma che c'entra la leotta? Ma che c'entra? Scusa, Ciacci. Ma veramente il culo della leotta nudo? Il culo della leotta nudo non c'è mai stato, non si è mai visto, se non nelle chat private. E purtroppo, direi anche. Forse quello della Kardashian, non lo so. Sì, però amore, il culo della Kardashian è 18 volte il tuo, non so come. Però abbiamo capito che a te piacciono i culi tondi, anche degli uomini piacciono i culi tondi, giusto? Allora, Cruciani, io ho lavorato con un signore che si chiamava Federico Fellini e mi ha insegnato che il culo deve essere grosso come la luna, pieno come una vasca di gelato in cui tu passi. Cioè, ma sia dell'uomo che della donna? La donna col culo un po' grosso piace, per esempio, col culo un po' tondo. L'uomo fa schifo col culo tondo, amico mio. No. Ma che pieno. Ma il culo deve essere tutto. Ma basta parlare di culo! Dai, dimmi che c'è. Racconto tutte le perversioni che sono anche le tue, ma che tu non vuoi mai raccontare. Prima o poi racconterai le tue perversioni sessuali. Le perversioni sessuali degli italiani. Cioè, tu, per esempio, non hai manco detto se sei più passivo che attivo. Non vuoi manco dirlo. Me ne frega. frega, ma che gliene frega al pubblico se io sono attivo, passivo, versatile o qualunque cosa? Secondo me sei qualunque cosa, puoi fare in e out, secondo me puoi fare in e out a seconda della persona. Comunque, io sono molto curioso, sai Cruciani, molto curioso. C'è curioso, qualcosa Cacci, che non hai provato nel senso? Sulla parte A di Cruciani. No. Scusami, allora, dopo il tuo intervento l'ultima volta, molti mi hanno chiamato per dire non è possibile che uno come Ciacci, che ha vissuto nello spettacolo e vive nel mondo dello spettacolo, abbia dei tabù del genere, abbia preso la strada del politicamente corretto. Cioè la strada che non si può dire Frocio, non si può dire Finocchio, non si può dire Checca. Dai su, non brutto Frocio, Frocio. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto. Ma hai detto che si deve andare in galera addirittura, dai. Galera deve andare la gente che sbagliano i termini. L'italiano è una lingua corretta e bisogna usare le parole nel termine. Ma se io ti dico che sei frocio, mica devo... Non si dice Cruciani, non si dice più, basta. È come dire fascista, quel cretino che parlava prima, che ha detto che sì, il Duce è stato 20 anni col consenso in galera, popolare. In galera. Ma se ne vada a fanculo lui e il consenso popolare. Ma scusami, ma è una dittatura. Ma quello non c'è dubbio, però parlando, la parola frocio, cosa c'entra quando uno dice la parola frocio? La parola frocio si può usare. Dice, se io dico Giovanni Ciacci è Finocchio, non è che lo dico dicendo è un brutto Finocchio. Allora, sanzioni e galera, bene. Ma voi siete matti, voi volete costringere... Cruciani, bisogna regolamentarizzare. Ma ormai, ma scusa, ma ormai perché c'è, le cose non si fanno così, dai. Scusami un attimo, ma qui c'è gente che in televisione va a monetizzare la propria omosessualità, come sai bene. E io non posso dire Frocio a Garco? Non posso dire Frocio a Garco? No, non ti permettere di toccare Garco. Garco sta facendo un percorso difficile. Ma non rompere i coglioni, Garco sta semplicemente, giustamente, secondo me, giustamente monetizzando. Monetizzando questa roba qui, monetizzando. Ma guarda che non è una cosa negativa, io lo dico positivamente, fa bene se c'è qualcuno che gli dà dei soldi per dire che è frocio, cioè la cosa che si sa, la cosa che è arcinota, fa benissimo. Lui è un uomo che ha sofferto, ci sono dei problemi dietro che vedrai, ora verranno tutti fuori perché c'è tutto un mondo là dietro. Vabbè, quello e poi comunque, vediamo quello che succede, e quello è un altro problema che non c'è, però è un ragazzo che ha sofferto, per 40 anni non ha potuto dire la verità, adesso è un uomo libero. Ma che non ha potuto dire la verità? In Italia non si può dire la verità, non diciamo cazzate, dai, su. Ma che dici? Se sei gay ti portano sul trono, ti fanno diventare subito una star, gay.it e tutti i meravigliosi siti che ci sono, ti trasformano in un'icona. No, vuol dire il giorno che i calciatori di Serie A faranno la stessa cosa, allora il problema sarà risolto, caro Cruciani, perché io ho decine di calciatori omosessuali di Serie A che non lo ammettono. Addirittura. E fai qualche nome, e facci qualche nome. No, facci. Non lo vuole dire. Non sono io che devo fare nome, non sono io, perché non è una cosa che mi riguarda. Se lo vuole, allora, se uno invece, scusami Giovanni, se invece c'è uno che dice, come abbiamo qui presente un signore che sostiene invece, che si chiama Maurizio Ruggero, che è di un'associazione cattolica, che saluto perché è un mio amico, ciao Maurizio. Allora, e se c'è uno invece che sostiene che i gay sono degli invertiti e sono sostanzialmente, e lui vorrebbe condannare i sodomiti, i sodomiti, tu cosa ne pensi? Risponde? No, aspetta, prima fammi sentire Maurizio, tu che ne pensi di Ciacci? Dimmi. Dunque, io penso intanto che avete inanellato una sequela incredibile di volgarità. Perché no? Volgarità? Scusa, non ho capito. Perché volgarità? Detto una serie incredibile di volgarità, di parolacce, eccetera. Ma quali parolacce? Non c'è nessuna parolaccia. Beh, insomma, voi siete specialisti. Ma non c'è stata nessuna parolaccia. Comunque c'è una sola cosa che io condivido del discorso che ha fatto il nostro interlocutore sodomita. Ma non è sodomita, fatto, è gay, è frocio, non è sodomita. È il termine corretto, cioè che non bisogna usare volgarità. Cioè, non bisogna usare volgarità, ma questo però vale per tutto, Ciacci, non è che vale soltanto per i sodomiti. No, scusami, ma i sodomiti, vale perché li chiami sodomiti? Perché li chiami sodomiti e invertiti? Perché li chiami sodomiti e invertiti? Perché sodomiti è il termine biblico, no, con lo quale vengono designati. Tutti i tuoi parenti, ma che vuoi, ma vattene, ma sei antico Ciacci, come Ciacci, cupo, Ciacci o Ciance che sei, ma tu difendi la tua vita, tu difendi le tue passioni sregolate, ma cosa volete voi altri? Cioè, volete che vi mandiamo? Volete che vi mandiamo un avanzamento in carriera, due bonbon, dei cioccolatini, una gratifica in denaro, una promozione di carriera, per gente come voi che ha il marchio del peccato sulla fronte? Oh, Ciacci, Ciancia! Aspetta, fermo un attimo. Voi che cosa ha, Ciacci? Il marchio del peccato? Quale peccato? Sì, lui, come tutti quelli che sono sodomiti e che hanno addirittura l'arroganza di difendere questa cosa, anziché battersi il petto e convertirsi, che sarebbe l'unica cosa che si deve fare, questo vale per tutti, ma tanto più per i sodomiti, addirittura queste persone che hanno il marchio del peccato, che lo sbandierano addirittura, ripeto, gli facciamo un avanzamento in carriera, gli diamo una gratifica, due bonbon, gli regaliamo ma qualcosa, no? Questa gente qua, addirittura questo fa Maurizio, rispondi, Ciacci, anche del 22. Aspetta, Ruggero, fermo un attimo. Allora, Ciacci, Ruggero sostiene che tu hai il marchio del peccato, che ma siete sodomiti e invertiti. Ma questo nel medioevo, questo è matto, questo va curato, rinchiudetelo, questo va rinchiuso e buttata via la chiave. Ma gente così va rinchiusa in galera per una cosa del genere che sta dicendo. Io non posso condividere le mie scelte sessuali, a parte le mie scelte sessuali sono mie e a lui non gliene devono fregare un cazzo di quello che faccio io a letto. Cioè tu lo manderesti in alcol, faresti una legge per mandare in galera Ruggero, dici? Ma certo, uno che ragiona a questa maniera, che fa questi discorsi. Ma siamo nel 2020, Giuseppe, ma di cosa stiamo parlando? Dai Ruggero, come fai a chiamare invertiti è contro natura, dai, è contro natura, dai, su. Si vergogna, Ruggero, il sodomita dice agli altri di vergognarsi. Ma stiamo scherzando, vero? Adesso sono i malati che giudicano i santi. Ma non sono malati, ma come malati? Le persone sane di mente sono gli eretici che giudicano i cattolici. Ma non puoi giudicare i malati. Ma non puoi giudicare malati. I malati, gli omosessuali, dai, le scelte sessuali. E lo sto dicendo. Hai detto che sono malati. Hai detto. No. Mi fate dire quello che devo dire oppure lo dice Ciacci per me? Dimmi. Allora, io ho detto, siamo arrivati al punto che adesso sono ma è la categoria generale. I malati che appunto giudicano i sani. Appunto, tu pensi è una citazione biblica. Sì, ma tu pensi di essere sano mentre gli altri li consideri malati. E dai, questa è la realtà. Consideri gli omosessuali dei malati, degli invertiti contro natura. Io ho detto sempre che sono viziosi, non malati. La categoria diversa, ma quale viziosi? Ma dai, certo, ma su. Sono viziosi, è un vizio. Ma che male c'è a prenderlo nel culo? Che male c'è a prenderlo nel culo, Ruggero? Dimmi. Ma intanto c'è già un male nel dire così. Già l'espressione che ma usi, ma adesso lo uso per farlo capire. Per farlo capire, che male c'è? Che male c'è a prenderlo nel culo? Dimmi. Poi per di più, se questo purtroppo configura anche una violazione del sesto comandamento contro natura, figuriamoci, vero? È uno dei quattro peccati in grida vendetta dunque, al cospetto di Dio. Dunque rogo, fatelo spiegare da scemi, fatelo spiegare da quelli ballando le stelle. Ballando con le stelle, quattro peccati che grida vendetta al cospetto di Dio. Fatelo spiegare dagli intelligentoni ballando sulle stelle. Tu stai male, curati bene da qualcuno bravo, perché se ci fosse tanta gente come te dovremmo veramente aver paura. E mi fa impressione sentir parlare nel 2020 a questa maniera. Vergognati, e dopo prenderò il tuo numero e esporrò, vedrai, una querela, perché hai detto una cosa terribile, hai dato del malato agli omosessuali. Tu sei pazzo, lo sai che per legge l'omosessualità non è una malattia. Vergognati, Ruggero. Ma guarda, arriva il sodomita, deve dire a uno vergogna. Ma non è un sodomita, si chiama Giovanni Ciacci, non è un sodomita. Ci facciamo giudicare dei sodomiti, ci facciamo giudicare dagli eretici, ci facciamo giudicare dei matti. Fermi tutti, ragazzi. Vi devo salutare, Ruggero, ricoverati, dice Ciacci. Ciao. La zanzara. A Cruciani, qua parlano tutti dei camionisti che ti sorpassano a 2 km all'ora in più di te, ma nessuno ha considerato quei cazzo di motociclisti che si vanno a infilare mancando tutte le precedenze, facendo sorpassi multipli. Ma porca puttana, dico io, ma vaffanculo, c'è della gente che deve lavorare, questi qua ti rischiano di fare l'incidente, fassi pure i cazzi te. Ma dico io, cosa ne pensi di questi motociclisti, Crucià? Dimmi tu. Vorrei portare la mia testimonianza. 10 anni di notte in macchina per lavoro, ho visto un aumento esponenziale di negri sulla carreggiata senza segnalazioni, e francamente devo ammettere, al di là di qualsiasi forma di razzismo, che non si vedono per un cazzo al buio, è veramente difficile vederli, tranne poi quando ti sbattono su parabrezza, allora là li vedi. Oh! Molto bene, Mario da Firenze. Mario da Firenze. Dai. Molto bene, cioè uno lascia il messaggio sui negri, molto bene. Vabbè. Adesso non fare il parenzo, dai, su. Faccio il parenzo, sì, però commentiamo un attimo il fatto che, cioè, uno ce l'ha con i negri perché non si vedono di notte. Ma che messaggio perché con la è? Bicicletta, ma che roba perché, è? Sai, tutto nasce, lo sai da che cosa nasce? Nasce da un filmato che gira molto sull'internet in cui c'è un camionista che bestemmia come un pazzo. Non so se ecco, dalla regia hanno i difensori visto del cristianesimo. No, sì. Ma è così, uno che bestemmia come un dannato, un camionista, perché c'è un uomo, uno di colore, che sul bordo della strada è effettivamente complicato un po' da vedere, però insomma quello succede anche con le persone non di colore, di notte, cioè quelli vestiti, che cazzo è la differenza, qual è che si vede la faccia bianca. Va. Mario da Firenze, vai. Oh, eccomi qua, Peppino, ascoltami. Dimmi. Dicevo, guarda, è le priolosa, è la gente, o metto a mio Ruggero, come qui Pischero prima che diceva e Duce gli ha fatto anche cose. A questa gente gli avrebbe beato il diritto di voto, io se lo dico, poi famo e voi volete. Ma che diritto di voto? Ma non diciamo stronzate, viva la libertà gente sempre. È pericolosa. Perché, ascolta, io poi ho chiamato per la caccia, ora dico questa. Cioè? La signora lasciava ragione a lamentarsi per il discorso dei cacciatori rompano coglioni. Però ti dico anche, a me mi rompe coglioni le campane che le suonano a tutte l'ore, sicché siccome sono ateo, a me mi garberebbe vedere tutti i campanili di Elie. Giusto, questa cosa. Levate in mezzo, come tu levi la caccia, tu levi anche le campane di Elie. Vale per tutto, c'è la caccia, ci sono i campanili, ci sono i bar sotto, le rotture di coglioni ci sono, dai, su. Poi se vogliamo limitare questa roba della caccia, che uno spari a 150 metri, come sembra, dalla propria abitazione, va bene, facciamo qualche cosa, ma non rompete le balle, non è che per questo va abolita la caccia. Ma ha ragione che la donna a lamentarsi, perché comunque ci sono tanti bischi. Vabbè, allora Mario, dunque? Allora io dico che bisognerebbe non far risultare buon fascio, caro Gottardo, perché dopo, se tu abolisci la caccia, tu ti ritrovi 50.000 bracconieri, no, più troppo da gestire. Allora, la amico, caccia, amico, la amico toscano, fatta per bene. No, fermo, la caccia, Fiorentino, va. Un sotto toscano, Vabbè, quel cazzo che è. Firenze in Umbria, in Lazio, sarà toscano, sì. No? No, allora, vai. Amico Fiorentino. Ci sono proprio in Toscana molte riserve di caccia private e i cacciatori vanno a cacciare nelle riserve di caccia private invece di invadere i campi dei privati che non vogliono rotture di palle sul loro campo. No, è una stronzata, basta rispettare le regole, se le scatole non le rompi ai privati. Ciao ragazzi, ma che roba è? Allora ragazzi, un professore, Università di Roma 3, qui ospite alla Zanzara, caro Gottardo. Nel giorno dell'assenza di Parenzo, gliel'ho fatto cosa quasi apposta. Costui? Allora, no, calma, una cosa molto seria e soprattutto una persona con cui, diciamo, le cui tesi sono esattamente le mie, almeno quelle in materia sessuale. Ha pubblicato un libro che si chiama Ancora Bigotti, gli italiani e la morale sessuale. Lui si chiama per Einaudi. Dunque, prima di comprare il mio libro l'8 ottobre, comprate questo libro, vi invito, perché ci sono molte quindi tesi doppia che... doppia marchetta. No, ma doppia marchetta, la mia è un'automarchetta allora, e farò promozione. Allora, questa qui... Bene, ricordiamo allora il fatto che io sono in collegamento dal Plaza di Abano, sì, a questo punto facciamo la completa. Edoardo Lombardi Vallauri, buonasera. Allora, leggo il frontespizio. Benché spesso ci si racconti il contrario, la morale sessuale è uno degli aspetti per cui la nostra civiltà è progredita di meno. Oggi stesso, volendo, potete danneggiare la reputazione di una persona usando i suoi comportamenti sessuali. Partirei dalla seconda cosa, cioè dire, è vero che oggi se dici a qualcuno, che ne so, che è andato a puttane, che è andato a prostitute, un po' lo colpisci. Cioè, o sbaglio, professore? Basta meno. Se è una donna, dire, sai, l'altra sera era con Tizio e stasera era con Caio, sì, con un'alzatina di sopracciglia, è più che sufficiente. Cioè, dare per esempio della troia a una donna, cosa che per me è un complimento. Ovviamente assoluto. Bisogna vedere uno come lo dice. Cioè, però è evidente che se io do della troia a qualcuno, io glielo do facendogli un complimento. Oggi se dici quella là è una troia, sembra una un'offesa. Molte donne si offendono, altre invece non si offendono per niente. Lo puoi fare solo in privato, specie in certe situazioni, la guardi in un certo modo e gli dici, certo che chiaro, sei veramente una gran troia. E quello allora Certo. No, perché per cui si potrebbe sdoganare prima o poi, secondo lei, si dovrebbe sdoganare anche questo tipo di linguaggio qui. Cioè, se io dico nel libro, per esempio, io mi lamento del fatto che praticamente tutte le parole che riguardano il sesso sono dispregiative. Assolutamente non va bene. Qualunque comportamento sessuale lo puoi descrivere solo con parole che suonano o di condanna o ridicole. Tipo oltre Troia che ho detto tipo, già. Non so, pompino è una parola ridicola, anche bocchino è una parola ridicola, cioè in realtà perché blowjob non è ridicolo? Sì. Sono costruite in maniera ridicola. Per fare sesso in più di due, praticamente l'unica parola che abbiamo è orgia. Sì, sì. Orgia evoca qualcosa di grottesco. Sì, non poi solo grottesco, evoca anche qualcosa di sporco, no? Qualcosa di sporco, di negativo. Esatto. Allora, per esempio, parliamo di farsi una sega, no? Sì. Farsi una sega è chiaramente una cosa strana, buffa, no? Una pugnetta, un solitario. Sì, oppure sì. Devi dire masturbarsi con un parolone cacofonico, schifoso, che gronda condanna, gronda distanza. Beh, dalla però, cosa. Professore, e allora che termine userebbe loro? No, bisogna usare in continuazione farsi una sega finché non diventa una parola normale come tutte le altre. Giusto, questa è una teoria che Valentina Nappi apprezzerebbe molto. Valentina Nappi è una porno attrice, non so se lei la conosce, sì, professore. Molto apprezzabile. E che molto, lei guarda porno? Io sì, certo. Ecco, ma anche dire questo, vede la cosa, lei ha il coraggio di dirlo, anche uno che pubblicamente dice sì, io, beh, adesso questo forse meno, cioè io guardo un uomo pubblico, uno che ha una posizione nella società, no? Cioè che dice, io sì, ma ogni tanto la sera vado su Pornhub e mi faccio una sega. Cioè questa cosa, esatto, che ti guardano strano, se lo ma dici... Ma perché io ho studiato, chiunque studi sa che le percentuali sono tali per cui quelli che dicono io non lo faccio stanno anche raccontando una bugia oltretutto, mentre lo fanno, è chiaro. Certo, questo bigottismo, secondo lei da dove viene? Cioè, lei sostiene nel libro che ce lo portiamo dietro da 4.000 anni ed è sostanzialmente colpa della religione. Questo però non è una cosa che riguarda solo l'Italia, immagino, no? La religione è uno dei principali responsabili perché, insomma, se tu vuoi vivere senza lavorare, un sistema molto buono è quello di far credere a tutti che sono in colpa e che se tu non li redimi da quella colpa avranno un'eternità insopportabile. Allora, la casta sacerdotale si è inventata dei modi per incolpare. Guarda, tutte le religioni hanno i divietuzzi, no? I divieti, cioè, sì. Però tu non puoi impedire, non puoi dire alla gente se mangi sei in colpa, perché allora ti stoltifichi da solo, diventa evidente che stai raccontando delle balle. Però gli puoi dire se mangi maiale, se bevi vino, se mangi carne di venerdì. Cioè, puoi dargli dei divieti che sono contrari alla natura umana, quindi la gente prima o poi sgarra e va in colpa. Sì. Sul sesso è ancora meglio, perché il sesso tutti hanno bisogno di farlo, però è meno evidente che proibirlo è una cazzata micidiale. Ancora. E allora tutte le religioni si mettono a dire qualcosa contro il sesso, così tutti sono in colpa e devono andare dai sacerdoti e dargli da mangiare. Cioè, se non ci fossero dei divieti sul sesso, probabilmente non esisterebbero nemmeno le religioni. Diciamo che i preti dovrebbero fare un vero lavoro. Allora, io e invece così non hanno bisogno. Però non c'è solo la religione, ora stiamo parlando di quella, ma ci sono tanti altri motivi minori per cui il sesso viene tabuizzato. Ecco, lei sostiene che la monogamia è una cosa innaturale, che è la mia tesi da tanti anni. Cioè, giurarsi fedeltà dal punto di vista sessuale è una forzatura rispetto alla natura umana, giusto? Lei fa la giusta distinzione, cioè dal punto di vista sessuale. Mentre una alleanza, una monogamia esistenziale è indispensabile per realizzare certe cose, dei progetti comuni. Cioè la monogamia degli affetti, diciamo, la monogamia. Sì, cioè, dire, tu sei il mio preferito, sei il mio principale, sei il mio alleato, il mio compagno, così possiamo fare per esempio dei figli e allevarli senza farli soffrire in situazioni insostenibilmente, insicure. Però invece... questo patto esistenziale, perché mai deve comprendere un sacrificio mostruoso, e cioè non andare a letto con nessun altro? Perché bisogna privarsi di qualcosa che in realtà è provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che non mette affatto in crisi una buona relazione? E soprattutto è contro natura. Allora, qui abbiamo una persona come Alberto Gottardo, per anni è stato monogamo e ha sofferto come un cane. I cazzi vostri, no, in onda. Hai sofferto come un cane. È vero. Un cane. Anche lei, professore, ha sofferto la monogamia o no? Io sono stato monogamo e devo dire che le teorie sulla necessità di essere monogami sessualmente forse sono la causa principale per cui le mie relazioni monogame hanno avuto poi dei problemi. Cioè, senza queste divieti sessuali probabilmente le relazioni durerebbero di più e sarebbero più pesanti. Cioè, se lei avesse tradito, diciamo la verità, adesso poi non ce lo può dire, se lei avesse tradito e se lei avesse avuto un rapporto più libero con la sua compagna o con le sue compagne con cui ha avuto rapporti monogami, probabilmente alcuni di questi rapporti sarebbero ancora in piedi. Questa è la sostanza. Ma non solo i miei, tutti i rapporti. Cioè, la gente si mette insieme su un patto insostenibile e quindi ovviamente prima o poi finisce per violarlo e manda in crisi la coppia. Se si mettesse insieme su un patto che non sia contro natura, che non imponga sacrifici inverosimili, non distruggerebbe la coppia per futili motivi. Allora, lo scambismo oggi è uno dei grandi tabù. Cioè, se oggi io dico se oggi io dico, questa è una tesi che sostengo nel mio libro, ma penso che sia presente anche nel suo, professore, cioè lo scambismo oggi, dire io sono una coppia scambista, faccio parte di una coppia scambista, è una cosa che intorno vieni guardato male. Una volta, era dire omosessuale. Beh, ridono, ti guardano anche male dicendo che sei, appartieni ad un mondo strano, appartieni ad un mondo lontano, appartieni ad un mondo perverso. Maniacale. Sì, quelli che sono tranquilli e soddisfatti della loro vita ti trovano magari buffo. Quelli che si incazzano, sai quali sono? Sono quelli per i quali la tua testimonianza li mette in crisi, cioè gli dimostra che loro stanno vivendo una vita al di sotto delle loro possibilità. Si arrabbiano quelli che vorrebbero essere al tuo posto. Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Fermo un attimo che torno con lei, fermo un secondo, Sì. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Allora, come sempre io sono indietro coi podcast, però volevo dire che voto Fratelli d'Italia, sono antifascista e ritengo Paco da Belluno un patriota. Viva l'Italia, ragazzi! Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta La Zanzara. Un caro saluto a questo nostro professore che sta interloquendo con questa curiosa coppia. Ecco, io mi intrometto soltanto per dire questo. Io sono fieramente monogamo da molto tempo e mi sento anche in assoluta minoranza ogni volta che partecipo a questa trasmissione, ma vi vorrei dire che la normalità non sono quei signori lì, la normalità sono io, perché io non penso che sia normale, anziché andare al cinema o a teatro o a cena di amici, portare la propria donna nelle mani di un altro e di assistere inermi all'accoppiamento. Questo non è normale, cari amici, non è normale. In attesa di fare la sua conoscenza, le porto i miei più cordiali saluti e mi auguro che anche lei tenga a bada sua moglie. Grazie. Professore, questo era un messaggio diretto a lei, professor Balauri. Lui ha tutto il diritto di essere monogamo, perché vede, ci sono le due posizioni, non sono solo diverse, ovvero limitazioni al sesso oppure non limitazioni al sesso, sono diverse anche in un'altra cosa, è che chi è per le limitazioni al sesso vuole decidere anche per gli altri, cioè vuole che anche gli altri si limitino, mentre chi come noi è per non mettere limitazioni al sesso, lascia che gli altri si limitino finché vogliono. Sì, io aggiungo una cosa però, aggiungo che la monogamia, noi aggiungiamo però una cosa, diciamo noi che siamo accomunati da questo comune sentire, noi aggiungiamo che cosa? Che la monogamia in realtà è una forzatura, perché è innegabile che sia una forzatura, Caso del signore può anche non esserlo, se lui vuole essere monogamo non fa male a nessuno. Penso, ecco, comunque è una sua scelta libera contro cui noi non abbiamo nulla. No, questo è chiaro, ma non può non sentire pulsioni per altre donne. Le devi reprimere o per altri uomini. Magari si trova meglio a reprimerle. Sì, può essere, certamente. Scusi un attimo, c'è un'altra cosa che volevo chiedere. È vero che lei sostiene che il sesso dovrebbe essere una cosa come prendere un caffè, come mangiare una brioche? Noi diamo troppa importanza all'atto sessuale? Dunque, troppa importanza no, nel senso che è molto meglio dei caffè e delle brioche, ma gli diamo un valore, diciamo così, di collegamento con altre cose, per cui praticamente c'è sempre un motivo per non farlo, mentre invece, allora per esempio, se tu stai con una donna, no? E lei è d'accordo che tu giochi a tennis con altri, che tu vada a cena con altri, che tu faccia lunghissime passeggiate con altri, e invece l'unica cosa che non puoi fare è guardargli le tette, no? Allora, questo secondo me è una differenza che si fa fra sesso e altre cose che andrebbe dimostrato che è veramente necessario. Ma lei sarebbe pronto ad accettare il fatto che la sua fidanzata andasse con qualcun altro, la sua moglie, una sua compagna andasse con qualcun altro dicendoglielo? Guardi, è operativo. Non è che io sarei pronto, è operativo. Io non sono interessato a una relazione nella quale la mia donna è costretta a evitare cose di cui ha voglia per causa mia. Io non voglio essere il carceriere, il cerbero. E dunque della già mia le donna. Succede, lei vuole scegliere una donna che sia libera da questo punto di vista. Dunque già ma le succede. Ma non lo è, lo diventa. Guardi, nel rapporto con me le donne, diciamo, da quando io ho sviluppato questa convinzione, Le donne che non si sentivano libere hanno finito rapidamente per sentirsi libere. Dunque, lei mi sta dicendo che le è successo concretamente di avere donne che le hanno detto: avete concordato, cioè avete concordato di tradirvi a vicenda, oppure di partecipare ad una. Sì, ma non è tradimento, perché il tradimento è tradirsi, quando tu ti impegni a fare una cosa e poi non la fai. Quindi supponiamo che due si impegnino che l'altro telefonerà all'idraulico entro domani e l'altro non telefona all'idraulico, quello è tradimento. Cioè, quando uno dice farò una cosa e poi non la fa, oppure non farò una cosa e poi la fa, il bene della coppia è fare in modo che ciò di cui tutti hanno bisogno non diventi tradimento, e quindi non stipulare che non lo si farà. Quello è meraviglioso. Lei ci è arrivato a questo punto? Lei è arrivato a questo punto? Sì, capisco che sia interessante sapere quello che faccio io. Sì, però è più interessante ancora il problema generale, perché poi io sono solo un esserino piccolo ma in mezzo anch'io, a ma anch'io, io per esempio sono arrivato a questa convinzione, cioè vorrei stare con qualcuno che non si fa problemi a dirmi: guarda, ieri mi sono scopato uno, oppure facciamo una cosa insieme, una cosa di questo tipo. Sì, ma non solo ieri, mi dice mi piace quello. Ah sì, vediamo un po' come si potrebbe fare, non so come comunicarglielo, perché non gli lasci un bigliettino, cioè come tante altre cose si possono vivere insieme, no? Ma è stupendo, grazie professore, a presto, grazie, grazie a voi, mi raccomando. Ciao. Lo vedi che il crucianesimo ormai è dappertutto il crucianesimo, amico mio, dappertutto. E non so se è un bene o un male, mi rimane questo dubbio. Allora, oggi i signori del Kodakons basta, hanno tutti attaccato, i giorni questi qua, hanno tutti attaccato, i giorni una roba nuova. Chi? Allora, hanno attaccato i signori del Kodakons, hanno attaccato Fedez e la Ferragni, in particolare la Ferragni, perché ha pubblicato in un'intervista su Vanity Fair un'immagine con lei, col suo volto, come se fosse la Madonna, con un bimbo in mano. Diciamo. Allora? Blasfemia, allora? Deve intervenire l'autorità, denunce, chiamiamo Riez. Ma dai. Rienzi? Sono Cruciani, come andiamo? Cruciani, dimmi che c'è, la Ferragni. Ma dai, su, ma come si fa? Ma come si fa? Che paga Ferragni? No, io non ho niente a che fare con la Ferragni, per carità, io sono io e non è che non sono né pagato dalla Ferragni né faccio l'ufficio stampa della Ferragni, per cui non ti preoccupare. Allora, dimmi. Qual è la blasfemia in un'immagine del genere? Me la devi spiegare, dov'è la blasfemia? Cioè, non mi pare una cosa blasfema, è che voi avete un precedente con loro e ogni cosa che fanno ve incazzate. Abbiamo fatto tanti di esposti per blasfemia, perché abbiamo molti cattolici nella nostra associazione che ci segnalano tantissime immagini che profanano quella che è la sacralità dell'immagine della Madonna, di Gesù Bambino. Ma ti pare che uno può mettere la testa del bambino della Ferragni al posto di Gesù Bambino? Dai, ma ho capito, ma qual è il punto? Cioè, a parte che quella è un'immagine. Se non lo capisci, pazienza, vuol dire che per te non lo è. Ed ma è no, certo che non lo è. Ma ho capito, ma non è che voi rappresentate i cattolici, però. Cioè, addirittura. No, noi rappresentiamo anche i cattolici e poi chiediamo alle autorità competenti di valutare se questo sia un comportamento dignitoso oppure no. Cioè, non è che ogni cosa che ha a che fare con la Madonna, non è che hanno bestemmiato, hanno fatto un'operazione, può darsi anche commerciale come al solito, che non. Ma questo è già molto importante, cioè il fatto che sia fatto per speculare e guadagnare soldi, utilizzare le immagini sacre che la gente è abituata a rispettare in tutte le sue forme, in tutte le sue. Ma quello è un lavoro artistico, lo sapevi? Non lo sapevi nemmeno che era un prodotto artistico? Benissimo, sì. Non è che questo esclude la illiceità, perché se tu fai una battaglia sacrosanta contro la violenza sulle donne e mostri gli stupri, non lo devi fare, perché non è che siccome lo fai. È come far vedere delle immagini sugli stupri mentre fai una battaglia a favore delle donne. No, esatto, per dire guardate che schifo, cioè non so se mi spiego, la illiceità di un'immagine. Ma di qual un è l'illiceità? L'Italia è un paese laico, cioè l'Italia non è un paese che ha, cioè non è un paese, non siamo. No, la tua opinione è rispettabile. No, ma certo che è rispettabile, ti credo, io ho capito, ma il problema è che voi fate, voglio dire, tira tu. Ma cercate visibilità su questa roba qua, cioè ma evidente che bisogna visibilità, l'ultima cosa che ci serve. Beh certo, appena fai Ferragni, anzi, Fedez eccetera, ho immaginato che fare una cosa così banale fatta tante altre volte per tante altre persone avrebbe suscitato tanta reazione, ma ancora l'avrebbe fatto. Ho capito, ma chi interessa i consumatori? Cioè, voi siete un'associazione che si batte per i diritti dei consumatori e va bene, ma che interessa, c'entra con i consumatori? La dignità e il rispetto dei sentimenti religiosi e dei sentimenti. Ma che c'entra con i consumatori? I consumatori è un'altra cosa, cioè voi siete è come fare polemiche, cioè è come fare opinionismo, cioè dice quella immagine non mi piace, offende i cattolici, offende i cristiani. Dov'è la blasfemia? Cioè la blasfemia è un'immagine che offende. Dov'è l'offesa qui? Guarda, se mettessi la tua testa sulla croce al posto di quella di Cristo sarebbe la stessa cosa. Ma sarebbe stata un'opera d'arte, ci sono le opere d'arte, esiste l'arte. Due ladroni. Al posto di due ladroni potremmo mettere. Al posto dei due ladroni forse sì, ma al posto di Cristo sarebbe blasfemia. Perché io sono, perché io sono l'opposto. Perché Cruciani non può stare con la faccia sulla immagine sacra di Cristo che tutti vogliono. Al posto di Barabba potremmo metterlo. Ho capito, perché io sono il diavolo. Al posto di Barabba si potrebbe, sì. Forse, perché io sono il diavolo, Rienzi, non ho capito. Con Parenzo con la Ponzio Pilato, perfetto. Se capisci questo concetto hai capito tutto. Ho capito, ma non è che la Ferragna è l'opposto della Madonna, cioè non è che... Cioè non è una bestemmiatrice seriale, cioè se ci metti che ne so, la Ferragni è una che vende l'immagine del suo bambino per vendere delle griffe e fare soldi. Ma Rienzi, scusi, ma allora anche tutti i presepi viventi che fanno in Italia hanno la stessa dinamica, denunci tutti. No, perché Cruciani non lo metterebbe nessuno al posto di Cristo sul presepe vivente. Non dia l'idea a qualcuno, che qualcuno gli può venire l'idea, ma no, comunque uno che dice tutte quelle parolacce già non ci può stare, no? Su, come uno che vende l'immagine di un bambino per vendere le griff facendo soldi, quindi non ci può stare al posto della Madonna. Però voglio dire una cosa, la questione fondamentale è questa: e se uno in maniera normale, senza bestemmiare, si mette sotto, cioè si mette col velo della Madonna. Non capisco. La Madonna è una cosa, ma in un quadro che rappresenta la Madonna e Gesù bambino, metta la faccia sua al posto della Madonna, la faccia del figlio al posto della... è diverso. Ho capito, non è Valentina. Madonna, può andare tranquillamente, ma è un'opera d'arte, esiste l'arte. Appunto, ma l'arte non è quella con la faccia della Ferragni, però scusa. Vabbè, quello non è che lo decidi tu, cioè, non è. Infatti io non decido proprio niente, poi tutti hanno la loro opinione, la tua è una, quella di... Ma abbia pazienza, Rienzi, se ci fosse stato lei quando dipingeva Michelangelo, la Trinità del Tondo Doni non sarebbe mai stata fatta. Ma poteva essere fatta, come è stata fatta la Madonna del Parto, come sono state fatte tante opere d'arte che sembrano... Cioè, decide lei cosa si può e cosa non si può fare. Beh sì, lei vorrebbe far togliere questa roba qua. No, ma lei vorrebbe che questa cosa qua fosse censurata, sostanzialmente fosse cancellata. Lei lo vorrebbe, altrimenti di che stiamo parlando? Per blasfemia, no, o per offesa. Noi abbiamo segnalato alle autorità competenti, sì, un comportamento che ci sembra offensivo dei sentimenti religiosi dei cattolici. Sì, punto. Io non voglio proprio niente, guarda. Ho capito, se questa immagine fosse... L'obiettivo qual è? L'obiettivo qual è però? L'obiettivo è quello di rompere le balle alla Ferragni e di dire questa immagine. Ma ce ne frega assai della Ferragni, ma hai capito niente, guarda. Noi della Ferragni proprio non ce ne può... Tra l'altro, per una cosa del genere, semmai ce ne può fregare, perché tuteliamo a livello nazionale le immagini dei bambini che sono indifesi e che... E lei, quello è il suo bambino, come tante altre, non importa, i bambini hanno la loro personalità, ma la loro... Ma lei, quella è la madre, ma quella no, è la... non basta. Ah, non basta, cioè... le e allora denuncia anche lo zecchino d'oro, faccia chiudere lo zecchino d'oro per lo stesso motivo. Sì, vabbè, ti saluto, No, scusami Carlo, scusami un attimo Carlo, i bambini non possono... Andiamo a parlare adesso, ma col consenso non basta il consenso, non basta, perché i bambini non possono dare consenso. Dunque il bambino della Ferragni non può essere, secondo te non può essere messo oscurati i visi come fanno le persone per bene, come si fa e si dovrebbe fare anche con le merendine, ma comunque è una cosa che non va bene, va bene? Dunque, no, secondo me non va tu bene. Cancelleresti anche grave le pubblicità con i bambini, anche col consenso dei genitori, i bambini non li faresti apparire nelle pubblicità? Dunque sì, io non li farei apparire, io personalmente. Vai, francamente non li farei apparire. Vabbè, ciao Rienzi, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Lo vuoi capire che chi non paga la FIHA è un morto di fame? Lo vuoi capire? Sì o no? Lo capisci ora che chi non paga è uno stronzo, un miserabile? Monarca. È uno che praticamente nella vita non ti serve assolutamente a niente. Monarca. Ma te fai diventare le donne puttane, in questa maniera le fai diventare tutte puttane. Perché lo so, perché dovete essere puttane di nuovo. La donna che non si fa pagare vuol dire che sa di non valere un cazzo. E io invece ti voglio anche puttana dentro, capito? Che ti piace, sta bene, ti piacciono regali e mi piace sentirti troia come mi pare a me. Dice, è vero, sì, è vero, dice, sì, questo è vero, dice, è vero. Io ti farei fare anche un'indigestione di trans, ma poi non vorrei che dopo tu ti innamorassi di trans, perché dopo se tu ti incanti su trans, cioè vedi solo l'amore trans. Allora io ti dico, ogni due puttane trombi un finocchio, non tanto perché ti deve piacere il finocchio, perché il finocchio ti distrae l'attenzione da quelle puttane che stai chiamando. Capisci? Te non devi uscire dalla sfera delle puttane, devi rimanere nell'ambito della prostituzione se tu vuoi trovare un amore importante come quello che ti ha perso, si spera che ti abbia perso, capisci? È lì che ritrovi la via maestra e poi troverai anche un cazzo maestro. Gli insegnamenti del monarca. Tu non sai chi è il monarca, molto caro Gottardo? Molto mona, che in Veneto vuol dire stupido. Beh, monarca, non si può dire stupido. Monarca è monarca. Monarca, monarca pennella opere d'arte in audio. Il monarca, non Angelo monarca. Angelo da Roma. Poi collegamento con gli Stati Uniti, dove c'è una nostra amica che ci sta aspettando. Angelo, dimmi. Addirittura. Ciao, Guglielmi. Ascolta, io quello che non riesco proprio a capire, a parte che ci sono delle volte che la tua trasmissione non... cioè, deve essere fatta su qualcosa di inutile, ma questo minchione che prima ha detto l'inutilità che le donne fa parte di ognuno di noi, l'inutilità. Ma quel minchione che diceva che le donne vanno portate a scopare il tu te lo devi guardare, la tua donna te la devi guardare. Non è che è un obbligo, deve, non l'ha detto il professore di prima, non l'ha detto deve, ha detto che è un'opzione che non deve essere un'opzione. Condannata dalla morale comune. Diciamo, ma cosa cazzo c'entra la morale? Ma questo è il buon senso. Ma come vai a portare tua moglie, magari la madre dei tuoi figli, che magari c'entra? Fa la pasta fatta in casa, e beh, che c'entra? Torna dopo che ha preso in mano un bel pisello di qualcun altro, ma ci deve avere qualche problema in testa, ma forte. Ma quale problema? Chi te l'ha detto? Conosco una marea di coppie in cui la moglie viene trombata. Sono tutti tranquilli, ma è una gran figata. Ma che a te non piace, ad altri piace, perché devi chiamare? Ma c'entra un cazzo che non piace, io sto parlando di tua moglie, della tua compagna. Tua moglie, qualcuno ci sarà la moglie di qualcun altro, no? Che c'entra? Ma non è detto, magari c'hai la tua tromba amica con no, cui fai i cazzi succede tuoi, anche, dove su, vuoi. No, succede anche con la moglie, con la compagna, anzi la cosa più divertente è farlo con coppie in cui in cui c'è moglie e marito, in cui ci sono persone che stanno insieme da 20 anni. Mettere il dito, ma che cazzo state dicendo, ragazzi? State perdendo proprio il lume della ragione. Un conto è scopare e trombare il sesso, la no, piacere, ma fammi capire, il vizio, fammi no? capire. In un conto no, voglio è capirla tua sta moglie, cosa. Tua allora, moglie. Voglio capirla. Voglio capirla. Come no? Voglio capirla. Allora, tu dici, la tromba amica sì, posso farmela, ma mia moglie non può avere il tromba amico. No, non esiste. Allora, partiamo da persone consenzienti che hanno voglia di fare sesso con chi vogliono e dove vogliono. Perfetto. Sto parlando della tua compagna di vita, ok? La persona che quella, tu hai scelto la mia per compagna la vita, di vita non può scopare un altro. Io sì, no. Posso scopare chi voglio, mia moglie no. Non singolarizzare, non sono io ipotetico. Non sto parlando di me o di te. Ragazzi, ma non capisco perché condanni queste cose. Non capisco perché una coppia. Ma moglie... perché non esiste una cosa del genere? Ma come fai a trovare piacere nella tua compagna? E se uno lo trova, che fai? Lo consideri un malato? Lo consideri un malato? Sì, considero uno che c'ha qualche problema, anzi, che ce n'ha più di qualcuno che problema. Bah, ciao. Loredana da Prato, vai Loredana, dimmi. Sì, ciao a tutti. Senti, io volevo rispondere a quella signora speratissima che mi è sembrato di accento toscano sul discorso dei cacciatori. Gli volevo chiedere gentilmente se mi rimandava sotto casa mia, perché sotto casa mia invece di cinghiali è pieno, mi hanno distrutto, mangiato ogni cosa. Mi farebbe, guarda, la cortesia. Guarda, enorme. Te li manderei molto volentieri due a sparare ai cosi, a sparare ai cinghiali. Guarda, mi dispiace non c'ho il porto d'armi io, perché sennò ci farei l'appostamento. No, ma i cinghiali che rompono i coglioni andrebbero ammazzati immediatamente. Se un cinghiale rompe i coglioni vicino a casa di qualcuno, dalle guardie forestali. Ma questa sparerebbe tranquillamente, dai, su. Cioè, ma quali guardie forestali? Non vengano mica le guardie forestali sotto casa a badare i cinghiali. E che è pieno in Toscana. Se un cinghiale cerca di entrare dentro casa tua, prendi e gli spari. Qual è il problema? Cioè, prendi e gli spari, e credo che sia anche legittima difesa se uno viene a romperti i coglioni. Dai, ciao, vero, Loredà, vero. Ciao. Sergio da Bergamo, vai! Pronto? Dimmi Sergio, dimmi. Allora, su sta cazzo di caccia, scusami Cruciani, io ti seguo. Tu, io so che hai avuto la fortuna di aver conosciuto la buon'anima di Pannella. Ma che c'entra questo, scusa? C'entra perché io sono oltre, più radicale e liberale ancora di quello. Ma io infatti mica ho condiviso tutte le cose, questa cosa qui, a parte che l'ho incontrato dopo. Ma neanche io, però, giusta cazzo di caccia, ma cosa cazzo? Ma io voglio dire, abito nella bassa bergamasca, mi senti? Sì. Allora? Ci sono gli imbecilli, quelli proprio con le scocche rosse in faccia, con i fucili, che sparano alle mosche. Vanno in giro come dei coglioni a sparare col fucile col 12 alle mosche, sti cretini, no? E rompono i coglioni. Ma le mosche chi? Ma quali mosche? Le mosche, ma che le cosa? Mosche, che non c'è più un cazzo nei campi, non c'è più niente. Che cazzo di sport, di divertimento è questo? Vedi, qui? Va abolita, e poi, va abolita, dai. Eh? Va abolita la caccia, è evidente questa cosa. Libera, ma libera di sto cazzo. Il problema è che bisogna erudire le persone sul consumo di carne. Non capite un cazzo. Chi va al supermercato si mangia una bella bistecca di antibiotici. Diventiamo tutti resistenti agli antibiotici. Ma non dire cazzate, ma basta questa cosa. Ma vaffanculo, non capisci un cazzo che l'industria della carne. L'industria è tutto uno tutto schifo, sì o capisci no? Tutto te. Sì o capisci no? Tutto l'industria te, della carne è uno schifo, ma che cazzo dici, dai? Ma va a cagare, va, allora mangiati la carne, diventa io resistente. Certo, sì. E no, andate no, a fanculo tutti ci voi che sputate merda sugli animalisti, che invece hanno due dita di testa. Ma sei la tu caccia che la devono fare i Masai in Africa con la freccia. Sì, invece noi dobbiamo stare. Invece voi dovete andare a mangiare al supermercato i prodotti merdosi pieni di antibiotici. Ma perché tu lo sai come viene prodotta la bistecca che prende la gente comune. Io ero un cacciatore quando avevo 18 anni, perché il padre della mia ragazza era ricco e mi ha portato in Croazia a sparare i cinghiali. Dopodiché ho capito che era un coglione, come tutti quelli che imbracciano il fucile nella bassa bergamasca. Senti, allora, Sergio, bisogna avere Sergio, un po' di coscienza e Sergio, dire ma se no, io allevo Sergio, una mucca felice, io ti ho lasciato, libera, io ti ho lasciato parlare, io può avere un senso. Io fino adesso... Io fino adesso ti ho lasciato parlare. Adesso, dopo questa sequela di puttanate da parte di chi non so cosa ha in testa e cosa pensa dei cacciatori o di chi mangia la carne, dopo questa sequela di puttanate ti mando serenamente a fare in culo. Chiaro? E allora vaffanculo anche tu, no, imbecille. Ma se tu non vuoi mangiare la carne, non la mangi. No, tu se non tu, capisci. Se tu non vuoi la mangiare la carne, non la mangi. Lascia liberi, lascia liberi, lascia liberi le persone. Hai un microfono che ha una responsabilità. La gente va al mercato e si mangia una pletora di antibiotici, di medicinali. Ma questo lascia, ma no, a parte che non è vero, ma lascia. Ma se uno ha tutta la possibilità di informarsi, se uno si vuole ammazzare mangiandosi la carne piena di antibiotici, che si ammazzi. Poverino che guadagna 700-800 euro al mese, che altro non può fare di permetterci il macellaio doc. Cosa fa? Prende quella roba lì. Allora, non rompere i coglioni a chi invece dice cambiamo sta merda. per produrre un chilo di carne bisogna buttare via qui le solite cose, allora non rompere i coglioni. Ma non rompere i coglioni, ma chi se ne frega di quello ma che dobbiamo. Io sono culo tutta la società, io sono a favore dell'inquinamento. Pensa di noi dobbiamo inquinare sempre di più. Ma certo, assolutamente. Ma se vogliamo andare a inquinare sempre di più. Io sono d'accordo con te. Ivan da Brescia. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Pronto, ciao, scusami, sentivo il dibattito che c'era adesso, però volevo ricollegarmi un attimo alle cazzate che ha detto quell'imbecille in merito, circa 40 minuti fa, in merito all'omosessualità, che è un peccato, e menate varie. Posso intervenire in merito? Dimmi Ivan, dai, veloce, dai. Niente, volevo solo dirgli, quella testa di cazzo, che hanno rotto i coglioni lui, come tutti quelli che la pensano come lui. Io parlo di eterosessuale, ok, però ti posso garantire che persone... le persone devono essere libere di fare determinate scelte. Hanno rotto il cazzo con tutte queste storie del peccato non peccato, perché la vedono in maniera diversa, o hanno delle esigenze diverse, o hanno delle tendenze diverse. Vabbè, ma questo qua lo sappiamo, non è che lo sappiamo, cioè lo sappiamo perfettamente. Sì, il mio ma devono essere liberi, perché... devono essere liberi di dire frocio, finocchio, di utilizzare questo tipo di linguaggio, perché altrimenti entriamo in un circolo vizioso in cui fra poco sarà proibito pure dire bigotto. Se io ti dico bigotto, se io ti dico che cazzo ne so, oscurantista, se io ti dico medievale, se dico medievale, dici cazzo, mi stai offendendo perché nel medioevo tagliavano la testa, eccetera. Cioè, entriamo in un cortocircuito in cui cominceremo a togliere qualsiasi tipo di parola che possa essere considerata un'offesa. Fermi tutti, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.